fossi yo, viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Per introdurre l'argomento di oggi vi citerò due racconti struggenti che hanno massacrato la mia fanciullezza. L'uno è Canituccia di Matilde Serao. Canituccia è una povera bambina, vive in campagna, non ha nulla, ha soltanto un amichetto, il maialino Ciccotto, con cui divide i piaceri dell'alba. Ma quando si avvicina Natale, Ciccotto, che è così ben allevato dalla sua amica Canituccia, comincia a diventare grosso e pasciuto. Sicché una mattina la mamma gli dice: ammazziamo Ciccotto. E la povera Canituccia vede sull'aia una mattina il coltello di Sabatino, che è un altro contadino, penso, forse suo padre, non si sa bene, che taglia la testa a Ciccotto, la mettono in mezzo a un bel piatto con le foglie d'alloro. Solo che quando gli offrono di mangiarsi un pezzo di sanguinaccio, la povera Canituccia non ha cuore di affondare i dentini famelici in quella che è la carne del suo amichetto. Secondo racconto, vi è più struggente, è il Cinghialetto di Grazia Deledda. Esistono due bambini in una lontana, sperduta e arcaica zona della Sardegna che non ricordo bene quale fosse. L'uno è naturalmente un povero disgraziato con il padre in galera e l'altro è il figlio di un magistrato. Il povero disgraziato col padre in galera trova un giorno un cinghialetto fuggito alla nidata di cinghiali. Lo porta a casa e diventa il suo amichetto. Questo cinghialetto addomesticato è come un cagnolino per lui. Finché un giorno passa, il viziatissimo figlio del magistrato con la governante vede quel cinghialetto e lo vuole. La governante va dalla madre e dice: devi darmi questo cinghialetto. La mamma dice: dai il cinghialetto al schifoso e viziato grasso figlio del magistrato, che magari poi il papà si impietosisce e fa uscire il nostro papà dalla galera. E il povero bambino con il suo cinghialetto nella bisaccia lo porta al figlio del magistrato. Naturalmente lo tratta malissimo, lo vuole, lo porta nel giardino, lo prende a calci, gli fa delle cose terribili. Il poverino non gli resta che guardare la tortura quotidiana nei confronti del suo cinghialetto, il compagno di tanti giochi, quell'animaletto ammaestrato che lui tanto amava, nelle mani di questo perfido e paffuto ragazzino, finché un giorno, naturalmente, immaginate come vada a finire, il cinghialetto dal giardino passa alla mensa del bambino viziato. E quindi qual è la morale di questa grande storia? È che esistono animali che noi mangiamo senza battere ciglio, anzi leccandoci i baffi. Esistono animali che mai noi useremmo come oggetto dei nostri appetiti. Perché? Perché sono animali a cui siamo affezionati, che per convenzione noi pensiamo che siano i più intelligenti di altri animali, sono i cosiddetti animali di compagnia. Ma il cinghialetto e Ciccotto non erano animali da compagnia? Ecco, le presento Pierugo. Molto lieto, il mio Pierugo. Cagnolino adorato. Io senza di lui non posso vivere. Lui senza di me non cena. Certo. Per questo l'ho dovuto portare. Certo. Dai, ho sapete ragionare. Piacere, Fantozzi. E poi è pechinese, coi giapponesi siamo lì. Andiamo, signorina. Ci pensa lei dare qualcosa da mangiare a questo piccolo cane? Buongiorno. Questo can, dog, mangia. Fame. Cucina, mangia. Tu, cucina. Ande? Comprende? What is this? Cosa è questo? Ah, finalmente un po' d'arrosto. Era ora. Cosa? Pierugo! Ma non... Lei è un assassino! Assassino di pechinesi! La parabola più calzante per esemplificare il concetto che vorrei sviscerare con il pubblico questa mattina può chiamare l'800240024, è mirabilmente riassunta da questo episodio notissimo di Fantozzi. Va al ristorante giapponese con la signorina Silvani, lui tutto tirato, ha un vestito nuovo che lo fa sembrare due taglie più magro, quindi giovanissimo, un orrendo vestitino in vellutino vino cangiante che andava molto, marrone, che andava molto negli anni 70, mangiano delle cose schifose con i samurai giapponesi che mozzano le mani a chi osa non usare le bacchette. Alla fine la signorina Silvani, che era venuta al ristorante con il suo pechinese pirugo, si vengono a portare sotto il piatto dell'arrosto il pirugo arrostito con il collare ancora al collo. Inorridisce la signorina Silvani, ma perfettamente normale per il signore del ristorante giapponese che un cliente porti un cane e lui arrostisce e lo mangia. Perché mi è venuta questa idea di giocare sul paradosso degli animali? Allora, parto subito dicendo il mio punto di vista. Ho un grande affetto e un grande rispetto per gli animali a compagnia. Dico sinceramente, mi trovassi anch'io sperduto nelle Ande, magari prima di mangiare il mio compagno di viaggio mi mangerei anche un cane, un gatto, un pechinese, un pastore tedesco, un soriano. Non mi farei problemi. Normalmente non sono molto appassionato di carne, mi piace il maiale perché sono umbro e il rito dell'uccisione del maiale ha intessuto la mia tormentata giovinezza. Ma ci sono due segnali che mi fanno riflettere su questo argomento. L'uno è di tipo istituzionale, leggo ieri sul giornale, ma la notizia circola già da qualche tempo, c'è un'idea partita dalla vicepresidente della Commissione Cultura e sostenuta dal sottosegretario alla salute Francesca Martini, che vorrebbe fare, promuovere, pensare, immaginare uno strumento legislativo per vietare la mattanza dei cavalli a fine alimentare. In molte regioni d'Italia per tradizione si mangia il cavallo, mi viene in mente in Puglia è normale mangiare il cavallo, ma anche in alcune aree del nord Italia, nel Veneto, sotto Capodanno mi scambiavo gli auguri con una mia amica di Facebook, mi diceva vado a comprare il cavallo. E ho avuto un senso un po' di pietà pensando a Fura Cavallo del West, pensando al cavallo dove va mio figlio, però mi rendo conto che a alcune latitudini si mangiano i cavalli. Quindi qualcuno che pensa una legge per vietare il cavallo come oggetto commestibile, visto che il cavallo è un animale intelligente, un animale di compagnia, un animale di svago, è il compagno di galoppata di tanti appassionati, di tante appassionate. Non dimentichiamo Marina Lothar, che rese celebre nel mondo l'affetto e l'amore anche passionale per i cavalli. Poi un articolo uscito sull'ultimo numero dell'Espresso di Jonathan Safran-Foer, che è un provocatore radicale, che spiega perché abbiamo ancora tabù a tavola, come per esempio mangiare i cani. Cioè, i cani sono creature magnifiche, ma anche i maiali sono altrettanto intelligenti. Sopprimete un cane taglia media, marinatelo, friggetelo, un po' di sale e pepe, servitelo. E spiega che in realtà non esiste nessuna controindicazione nel mangiarsi cani. Cioè, sono riserve di proteine, è un fenomeno culturale, a noi fa inorridire, ma in tantissime parti del mondo non c'è nessun divieto. In 44 stati degli Stati Uniti è perfettamente legale mangiarsi cani, nessuno se li mangia perché è terribile, vengono dei sensi di colpa e di insofferenza terribile pensare il cagnolino fritto messo in salmico, le zampine in aria e con il ripieno di frutta all'interno, però da altre parti invece lo reputano per libato, trovano che sia una cosa bellissima mangiarsi il cane. Magari non mangerebbero mai una vacca perché per altri motivi non si mangiano vacche, o non mangerebbero mai un maiale, o il povero cicotto e il povero cinghialetto, il bambino sardo, non avevano lo stesso legame affettivo con i loro padroncini che oggi tante persone hanno per cani, gatti e altri animali, fino al parossismo che vindichiamo in alcuni filmati autoprodotti che abbiamo preso da YouTube. Ciao. Miau. Miau. Che c'è? Sicura? Mishka, I love you. I love you. I love you. I love you. Di papà, Luigi. Di papà. Di papà. Di papà. Di papà. Di papà. Come ti chiami? Come? Cosa? Ma hai imparato a ridere! E ridi! E ridi! E ridi, amore! Ma hai imparato a ridere, mio! Hai imparato a ridere! E vedi come ridi? E ridi! E ridi! E dai! Fisa! E ridi! E ridi! E ridi! Oh, che bella risata! Nemo! Oh! Nemo! sono persone normalissime, persone con cui dividiamo la vita, dividiamo i luoghi di lavoro, i luoghi di svago, sono gli appassionati viscerali radicali di animali. Ma quanti di noi col nostro gatto, col nostro cane, col nostro cavallo, ma anche col nostro coniglietto, con la nostra gallina, con il nostro agnellino? Io ho vissuto in campagna fino all'età di 20-25 anni circa. Da bambini avevamo l'agnellino con cui giocavamo. Quanti conigli ho avuto io, quanti pulcini ho allevato, mi sono tenuto finché non avevano la crestina e mi veniva detto che era ora che andassero nel pollaio a fare il loro dovere. Quanti maialini ho visto crescere, ho visto ingrassare, quanti cinghialetti correre nella macchia mediterranea, ma quanti pesciolini. Eppure esiste un netto discrimine fra gli animali con i quali possiamo avere commercio affettivo e quelli che possiamo sì apprezzare, guardare, vellicare, giocherellare, ma su cui non abbiamo nessuno scrupolo di coscienza nell'appoggiare i denti. Pensate a un coniglietto quanto è carino. Aveva un coniglietto, un batuffolino bellino, nero. Mi hanno detto che era un coniglietto nano, me lo regalò la mia allora fidanzata, poi diventata moglie. Mi mangiò tutti i fili del telefono, tutti i fili dell'abat-jour, poi crebbe, divenne un coniglione gigantesco. Lo regalai al marito della nostra signora che ci aiutava in casa, dicendo: no, non ce lo mangiamo mai, figuriamoci, lo mettiamo in mezzo agli altri conigli. Dopo una settimana era scomparso il coniglione e naturalmente se lo erano mangiato. Dici mamma? Mamma! Della stampa? Mamma! Mamma! Ma ti faccio anche una papà buona oggi? Mamma! Facciamo la pasta asciutta con le polpettine. Sì, la vuoi tutta la papa, amore? Mamma, ma sei brava, vieni a dare un bacino anche alla mamma, vieni. Pronto, Attila? Chiama mamma. Mamma. Attila. Mamma. Bravissimo! Vai, ciccio. Claudia Bordese, buongiorno. Buongiorno. Claudia Bordese, biologa, esperta in etologia e divulgazione scientifica, autore del libro Vivere a spese degli altri, elogio del parassitismo, edizioni blu. Ci siamo sentiti qualche tempo fa parlando appunto degli animali parassiti. Io voglio sottoporre alla sua attenzione questo dilemma su cui questa mattina io non riesco a districarmi, ma che sottopongo alla sua attenzione, a quella degli ascoltatori. Qual è il vincolo profondo e radicale che ci fa scegliere alcuni animali a cui attribuiamo caratteristiche quasi umane e ci fa tranquillamente, gioiosamente affondare le zanne nelle tenere carni di altri animali? Ma sicuramente non è una domanda molto semplice a cui rispondere. Indubbiamente però ci sono animali che convivono con noi ormai da diverse migliaia di anni, su basi diverse. Alcuni animali li abbiamo scelti, li abbiamo addomesticati per fini puramente alimentari, pensiamo appunto alle vacche, alle galline. Ci sono animali che abbiamo invece scelto perché per ragioni puramente lavorative. Il cane ha iniziato a convivere con l'uomo perché rappresentava un ottimo guardiano. Il cosiddetto cane da pagliaio, che io ricordo nella mia fanciullezza, il cane che sta nell'aia e difendeva l'aia dalle faine, dagli elementi fastidiosi, ecco. Certamente, ma fin dagli albori della storia dell'uomo, i primi cani servivano proprio a fare da guardia, a segnalare l'avvicinarsi di un animale pericoloso. O andare a caccia, o aiutare nella caccia. Esattamente, e il gatto altrettanto, in fondo fu addomesticato perché era un valido aiuto nel tener lontano dai granai i topi. Il cosiddetto cane da grembo, un'invenzione settecentesca, è un vezzo da aggiungere a tanti altri, come appunto il ventaglio o il cicisbeo accanto. Sicuramente, perché poi con il tempo queste funzioni lavorative sono un pochino degenerate e questi animali sono diventati prettamente da compagnia, pur continuando a essere ottimi compagni di lavoro, soprattutto i cani. È ovvio che diventa difficile pensare di sacrificare per nutrirsene un proprio collega di lavoro, alla fine il concetto è poi quello. All'interno del discorso della domesticazione è quindi difficile stabilire il perché di questa scelta, probabilmente legata al fatto appunto che un compagno di lavoro lo preferisci mantenere in vita proprio perché ha una sua forte utilità e poi soprattutto quando la compagno di lavoro diventa mascotte. La cosa interessante è notare che certi comportamenti che noi leggiamo umani in questi animali, perché poi la nostra tendenza qual è? Quella di antropoformizzare i loro atteggiamenti. Beh, abbiamo sentito questi giochini su YouTube, è molto di più che renderli umani, diventa quasi una profonda perversione, pretendere, è quasi un maltrattamento dal mio punto di vista, pretendere che un cane dica mamma, perché devi dire mamma a un cane. Sì, decisamente questi che abbiamo appena sentito sono delle vere e proprie degenerazioni, e anch'io mi associo nel dire che potrebbero tranquillamente rientrare nella categoria dei maltrattamenti. Quello che può essere invece interessante osservare sono le espressioni di questi animali, del cane ancora più del gatto. Il cane ha comunque una storia di un animale gregario, non è un animale solitario come il gatto, per cui è abituato a comunicare con i suoi simili anche con le espressioni del volto. Lo stesso Darwin, lo stesso Lorenz scrissero dei libri proprio su quelle che sono le espressioni di questi animali, dalle quali si può intendere completamente il loro atteggiamento. Poi certo noi abbiamo anche qui antropoformizzato la lettura di questi atteggiamenti e di queste espressioni, ma spesso non ci discostiamo da quella che è la realtà. La cosa interessante è notare come comportamenti che noi riteniamo assolutamente umani, in realtà poi li possiamo leggere anche in animali che sono completamente al di fuori della sfera domestica. Beh, io i maiali, ho avuto maiali di un'espressività che non ho visto in tanti amici e in tante amiche, dico la sincera verità. Da piccole, poi crescendo perdono un po' questa loro affabilità, perché sono molto presi dal mangiare dalla mattina a sera. Ma il maialino piccolo è sorridente, gioioso, è divertente. Ma sicuramente nei cuccioli si ritrovano dei comportamenti che poi si perdono effettivamente nei adulti. L'agnellino, tenere in braccio un agnellino è una cosa meravigliosa. Questo è vero, questo è vero. Ma le costolette poi piacciono a tutti e nessuno gli fa schifo mangiarsi. No, questo è vero. Le pensi che a Perugia mangiano le testicciole d'agnello, ti portano un piatto con una testina tagliata e ti guarda con quei dentini, fa proprio terrore, eppure se le mangiano tutti contenti. Perché giova il fatto che probabilmente non ha convissuto nella nostra casa, ecco, perché è difficile affondare i denti in un cane e in un gatto, perché se tutte le sere si addormenta sul nostro scendiletto, la mattina dopo pensare di infilarlo in forno eppure, si fa un pochino eppure, difficile. Eppure, professoressa, dai nostri ascoltatori mi viene una testimonianza diretta. Enrico, buongiorno. Buongiorno, infatti stavo sentendo, tanto complimenti per la trasmissione per lei. E niente, una cosa che è successa un po' di anni fa, ero bambino, in vacanza a provincia di Cuneo, non dico paese perché mi sa che la famiglia se mi sente mi riconosce. Insomma, in vacanza d'estate eravamo in affitto presso questa famiglia che ha diversi appartamenti, e in casa avevano un bel gatto bianco, grande, e viveva mangiava con loro, arrivava anche sulla tavola, forse che la tavola era un presagio. Insomma, che siamo ritornati in inverno per le vacanze d'inverno sulla neve, io non vedo più il gatto. Dico, dove andrà a finire? Dove non c'è più il gatto? E la signora, la mamma, con la più grande naturalezza di questo mondo, dice, l'abbiamo mangiato per Natale. Cioè, a parte che sono rimasto male, no? Mi sembra una cosa... Quindi per loro era normale mangiarsi il gatto? Ma diciamo che ci sono delle zone di Vicenza che dicono che hanno la... Sì, lo so, già mi stanno arrivando tutte le ricette del gatto. Mangiarsi il gatto che è stato il gatto di casa per diversi anni mi sembra una cosa... A Vicenza c'è una sorta di setta, non so se fra il serio e il giocoso, che dicono che ancora loro si riuniscono per mangiare il gatto come si mangiava una volta. Siamo infarciti di storie di genitori che hanno fatto la guerra e ci dicono che in guerra ci si mangiava i gatti. Andiamo avanti con Roberto. Roberto invece ha avuto un altro omicidio in famiglia. Beh, buongiorno a tutti, sì. A parte premesso che anche l'essere umano è un animale, per cui se non ricordo male quando ci fu un gravissimo incidente... Sulle Ande, i sopravvissuti sulle Ande. Ci fu anche episodi di cannibalismo, sì, per ma cui la questione morale è successo varie volte in varie zone anche dell'Europa, in occasione di pestilenze, guerre, distruzioni che i genitori si mangiavano i figli, è stato detto in questa trasmissione. Ma sono casi estremi in cui si impazzisce, esatto. Come il conte Ugolino, non è casi di normale vita quotidiana. Infatti, ma come tutti i bambini vissuti in campagna, come del resto ha raccontato anche lei, anch'io da bambino ho vissuto in campagna e quindi sono stato nell'aia con i cani da pagliaio, con gli animali, con i pulcini, con i coniglietti. E che si è mangiato? E mi ricordo che mia nonna allevò in casa le bellissime colombe bianche, alle quali mi affezionai. Carine, le colombine molto bianche. Carine, facevano un po' di addomesticate, cacchino, vengono a mangiarti in mano. Esatto, esatto. L'uccello della pace. Avevo 8 anni e mi sono divertito praticamente per tutto il periodo prepasquale allevando queste due bellissime colombe. La mattina di Pasqua mi svegliai e mia nonna, come usava a quel tempo per uccidere questi animali, le aveva, come si dice, scusate il termine, schiacciato la testa contro il tagliere con un'enorme mannaia. Sì. Per cucinarle. A casa mia gli schiacciano la testa dentro il cassetto, è la stessa cosa. Scapaletta. No, comunque sta di fatto che io quel giorno non le mangiai, ma a distanza di tempo devo dire che oggi mangio anche le colombe, come mangio i maialini e tutto il resto. A casa ho avuto un coniglio, non ho avuto il coraggio di mangiarlo, però come ha fatto lei l'ho regalato perché stava rosicchiando una credenza dell'Ottocento. Chi lo prende naturalmente se lo mangia. Fiorenzo invece nel settore cavalli. Sì, buongiorno. Buongiorno, io ho una cavalla che da 2 anni e che è molto carina, molto affettuosa e mai penserei di mangiarla, cioè conto di tenerla. Lei è un appassionato quindi di cavalli? Sì, sì. Cioè, quindi lei sarebbe d'accordo con la legge che vogliono proporre di non farla? Assolutamente, credo che questo sia il metodo per distogliere l'attenzione dai veri problemi del paese, perché ci sono cavalli da macello, cioè allevati appositamente per la macellazione, è una tradizione... diciamo culinaria italiana molto diffusa in alcune regioni. Sì, ho detto, esempio, sotto Capodanno tanti amici miei mangiano il cavallo. In Toscana non è molto diffusa. Ma non è un tabù verso il cavallo, non mi piace il sapore della carne, solo per no, questo. Non è vero. Cioè, dipende come è fatta. Non mangerei mai il fegato in vita mia, non mangerei mai il cervello, non mangerei mai la trippa. Dipende dai gusti. Eh sì, infatti, ma è soggettivo. Anche io avevo questo pregiudizio, poi ho cominciato a mangiarla. Addirittura cruda, perché una trattoria di Lucca, da Giulio in Pelleria, fa un'ottima tartara di cavallo. Io tutte le volte me la proponevano, dopo 3 o 4 anni che andavo lì, poi alla fine l'ho assaggiata e ora tutte le volte ci vado. Quindi lei che è un appassionato di cavalli, monta cavalli, alleva cavalli, certo. Non trova che ci debba essere un tabù nel mangiare cavalli allevati apposta? Sono i cavalli proprio da macello, cioè allevati appositamente per la macellazione, così come ci sono i bovini o gli ovini allevati apposta per la macellazione. Sono cavalcasse la bufala, dovrebbe avere orrore di mangiarsi la bufala, ecco questo è il discorso. Animali possono avere destinazioni diverse a seconda della maniera in cui sono allevati. 800 24 00 24, grazie a Fiorenzo, grazie agli ascoltatori. Mi dice Fabrizio Intonti che stanno già arrivando molte telefonate di protesta. Allora, stiamo sottoponendo all'attenzione del pubblico un fatto che traspare dalle cronache di questi ultimi giorni. Qualcuno solleva il problema sulla tabuizzazione alimentare rispetto a alcune specie di animali. È giusto o non è giusto? Parlare di questo non credo che sia infrangere un tabù, perché non mi sembra che esistano dei pregiudizi a trattare gli argomenti. Melog 2.0. Torneremo insieme su Furia e poi manderemo a prendere l'agnello. Joy, non posso, credo di avere una gamba fratturata. Mando Furia a casa mia. Furia, va a chiamare Jim, presto. Che cosa è stato? Niente, Frank. Ma io ho sentito qualcosa. Sarà stato un uccello. Mi sembrava piuttosto un orso. Mandalo via, Furia! Grazie, Furia, ci hai salvato la vita. Ora va a chiamare Jim. Furia a cavallo del West, che va più forte di un cielo. Furia a cavallo dell'West lotta contro un orso per salvare un agnellino. Sembra una meravigliosa rappresentazione del côté opposto rispetto a quello di cui stiamo parlando noi, anche se non abbiamo preso poi posizioni così nette. Partiamo da due provocazioni apparse nei giornali in questi giorni: una proposta di legge che vorrebbe vietare il cavallo come animale commestibile, perché dovrebbero essere assimilati ai cani e gatti, quindi animali da compagnia sui quali nessuno farebbe mai desideri alimentari, perlomeno alle nostre latitudini, perlomeno nel nostro tipo di cultura li considera animali che abbiamo scelto come animali da compagnia. Da altre parti si mangiano di tutto. E la provocazione uscita sull'ultimo numero dell'Espresso di un giornalista che dice: se siete carnivori, perché non vi mangiate anche i cani? È una provocazione chiaramente, ma dice in molti luoghi vengono considerati come proteine animali allo stessa stregua di tanti altri animali. Sono punti di vista. Sentiamo Roberto. Roberto, buongiorno. Buongiorno. Ma se mi tolgono la carne di cavallo, io cosa mangio? Quindi lei è un appassionato di carne di cavallo? Solo carne di cavallo. E a Natale ho fatto un brasato con la polenta e tutti erano lì a dire che buono, che buono. Alla fine ho detto era carne di cavallo. Sono rimasti tutti così. O le costine in umido. Ma poi si immagina un cavallo come animale da compagnia? Magari il salotto, io non so se lo terrei meglio nel piatto, no? Sì, beh, sa, chi cavalca considera il cavallo come quasi un essere umano, un rapporto tra un cavaliere e il proprio cavallo, un rapporto strettissimo. Il cavallo è un animale intelligentissimo, andare a cavallo è una sensazione unica, ci si sente tutt'uno con l'animale quando uno prende dimestichezza, è una sensazione molto forte. Quindi, però, come ci spiegava prima un nostro ascoltatore, ci sono diversi punti di vista anche rispetto al cavallo. Sentiamo Roberto. Ah, Roberto l'abbiamo già sentito, scusate, Carlo. Sì, buongiorno. Lei è un allevatore. Io sono un allevatore e ho proprio notato la differenza culturale mia e quella della mia compagna, che proviene dal centro di Milano. Cioè, quelli che non sono allevatori, non sono ancora a contatto con la terra, non hanno la visione, il rapporto tra la vita e la morte. Per cui quando è arrivata da me si stupiva che la tragedia, perché moriva il cane, moriva il vitello, moriva... è proprio che manca cioè la gente mangia le cose già tagliate, preparate, cotte, e non ha idea da dove provengono, e forse non lo vuole neanche sapere. Beh, io ricordo che i miei bambini, che sono nati in città, immaginavano che le galline nascessero tale quali vedevano nelle confezioni di pollo plastificate. Infatti hanno avuto abbastanza un senso di disagio quando hanno visto per la prima volta una gallina. Ma io, che ho ricordi di campagna, so quando accompagnavo le donne in pollaio, sceglievamo la gallina perché sapevamo già che ci avrebbero dato le zampe con cui poi noi giocavamo, facevamo dei giochi con le zampe di gallina. Queste sono cose che naturalmente la persona civilizzata e inurbata vede con orrore, considera degli comportamenti assolutamente barbari. Io ho vissuto questa, quell'altra realtà, quindi posso raccontarlo con tranquillità. Grazie, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, io sono senza parole questa mattina, perché quello che sto sentendo e l'articolo di cui lei parla è stato già letto. Io sono un attivista per la protezione animali e ringrazio la signora Martini di quello che sta facendo, e vorrei avere occasione di ringraziare lei, visto la sua successo e diffusione e ascolto, invece di parlare al contrario di quello che lei sta dicendo questa mattina, di cui io sto prendendo i sali per non svenire. Io capisco... Signora, però si rende conto che sono argomenti che sono all'ordine del giorno dell'attualità, certo. Perché non dovrei parlarne? No, io ho detto vorrei ringraziare lei in futuro, perché la sua popolarità e il suo successo, perché veramente la gente possa avere coscienza. Io naturalmente sono una vegetariana, penso da bambina, lavoro per gli animali, per proteggere, sono un attivista, vivo in autostrada, sono una designer Milano-Bologna, perciò vivo esattamente, vedo tutti i trasporti degli animali e piango ogni volta, e piango pensando che questi animali diventeranno cibo. Io mi rendo conto, la coscienza, io sono grande, cioè sana, voglio dire, mangio esattamente, vivo benissimo e ho una pelle bellissima senza avere con proteine animali, si può vivere ugualmente. Io volevo chiedere a lei, visto il suo successo, di invece aiutare la gente a sensibilizzare questa protezione, di non mangiare carne, di non mangiare cavalli, ma di non mangiare niente, visto la sua autorevolezza. Sono punti di vista, sennò io non posso fare pubblicità a uno o all'altro punto di vista. Rispetto al suo punto di vista, io non sono grande appassionato di carne, se proprio me la devo mangiare me la mangio, ma se mi dimentico di mangiarla sto bene lo stesso, quindi sono in una posizione abbastanza neutra. Per mio istinto, per mia condizione particolare, sì. Tendo sempre a guardare con un minimo di sospetto le punte estreme rispetto agli atteggiamenti, come quello di dire mi mangerei tutto, mi mangio gatti, cani, cavalli, conigli, ho gusto della carne, se no non sto bene, rispetto a quello che dice assolutamente vietato mangiarsi la carne. Ma se abbiamo sempre mangiato carne, evidentemente saranno dei motivi, ma ho pieno rispetto per chi è vegetariano stretto. Considero io, siccome ammiro molto quello che lei fa, perché lo fa con un piglio veramente incredibile, un giorno mi piacerebbe conoscere, sono a Milano, verrò a trovarla magari, la chiedo invece di aiutare le persone a convincersi a volte che alcune cose... No, io guardi, non aiuterò mai nessuno a convincersi di nulla, su questo può veramente mettere la mano sul fuoco, mai vorrei convincere nessuno di nulla, io espongo un pensiero, espongo un punto di vista, dicendo per primo che è suscettibile di qualsiasi critica, di qualsiasi obiezione, ma mai vorrei convincere nessuno a fare nulla. No, ma la sua parola, io dico solo rispetto per gli animali. Rispetto, ma è chiaro che se vedo maltrattare un animale sono prima di indignarmi, sono nato in mezzo agli animali, avevo cani, finché non ho avuto figli e non convivevano più assieme, ho sempre avuto cani per casa. Ma io l'ascolto sempre, io la ringrazio per quello che lei fa, perché lei sollecita veramente argomenti stimolanti e interessanti. E io chiedo a tutto il pubblico di avere attenzione per gli animali. Questa è la mia cosa. Anch'io ho letto questo articolo, sono inorridita. I cani non ne parliamo, gatti non ne parliamo. Cioè, io niente, chiedo alle persone di avere una coscienza. E ringrazio la signora Martini per questa proposta e tutto quello che l'onorevole Martini fa. La ringrazio. Sono contento che un supporter dell'onorevole Martini abbia avuto come... Sì, sicuramente, vorrei lavorare con la signora Martini. Sì, vorrei lavorare con l'ascolterai lei. Io lo vorrei proprio essere il suo... qualsiasi cosa, perché gli animali sono la prima cosa. Ringrazio lei di suoi argomenti, veramente. Se lui dicessi che sono un grande ammiratore e protettore e stimatore degli animali, lavorerebbe anche per me. Io? Sì, le persone che adorano gli animali, io difendo degli animali. No, vabbè, non sì. Mi fa piacere, ho una chiave in più, bisogna domani cercarsi sì. Aiuti gratuiti, so benissimo come vendermi. Grazie signora, grazie. Io la ringrazio. Michele. Prego, buongiorno. Michele, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, buongiorno a tutti quanti. Volevo fare una semplice considerazione. Se uno ammazza la zanzara che magari ci ronza di notte nell'orecchio, non succede niente. Se si ammazza un qualche altro animale, può essere il cavallo, può essere una qualsiasi altro, diciamo, animale, così, ecco che magari possono... Adesso giochiamo sul paradosso, qualche... cioè dobbiamo stare attenti a pestare le formichine, evitare di togliersi le piattole, cioè ognuno deve avere queste attenzioni, cioè non giochiamo col paradosso, è chiaro, è logico, lei ha ragione, ma... No, volevo sottolineare che io credo che tutti gli animali abbiano gli stessi diritti. Ah certo, chiaramente, ma se uno parte dal punto di vista che qualsiasi essere del creato abbia diritti, allora anche la povera piantina ha diritto, che in fondo è una forma di vita. Diciamo, nel collettivo ci si stupisce se si ammazza un animale, magari per mangiarlo, che c'è anche a fronte una giustificazione quantomeno logica, non dico giusta ma logica, e invece magari l'insetto, solo perché è insetto, allora dico... Beh, io mi sembra che il punto di vista della signora ha parlato prima, se è quello il primo livello, non bisogna mai infierire contro un essere animato per il solo piacere di infliggere una sofferenza, quindi il maltrattamento a priori è una cosa riprovevole, e l'accanimento nei confronti degli animali per gli allevamenti intensivi, i polli in batteria, cioè si vedono delle cose terrificanti su cui forse bisognerebbe fare, questo è il mio punto di vista, un'attenzione più particolareggiata. Poi esistono le posizioni antitetiche, il vegetariano assoluto e il carnivoro assoluto. Vorrei dare la parola, che finora ci ha ascoltato con grande pazienza, alla biologa Claudia Bordese, che ci ha ascoltato finora, se su questi atteggiamenti riesce comunque a darci qualche elemento in più, quali sono i comportamenti ad esempio che facciamo riconoscere negli animali qualcosa che merita una tutela maggiore rispetto ad altre creature. Ma parlando sempre degli animali domestici, come dicevo prima, credo che grande importanza noi diamo a quella che è l'espressività, e sicuramente, come giustamente faceva notare l'ultimo ascoltatore, per noi ha maggiore espressività sicuramente un mammifero, perché è un animale molto più prossimo a noi che non un insetto, nel quale non rivediamo nulla di noi, dimentichi come siamo comunque dell'evoluzione che ci porta fin da loro, insomma, essere arrivati dove siamo. Per i serpenti, per esempio, nessuno una pietà, se vediamo un serpente lo massacriamo senza un attimo di rimorso. Ma sicuramente, così come in tutto questo parlare di animali domestici, pochi fanno cenni ad esempio ai pesci, anche il famoso pesciolino rosso che molti di noi comunque possono avere in casa, comunque ha sicuramente meno riguardi, o quantomeno vive di meno riguardi che non di un cane. Ma se dico spigola, orata, la gente si fa venire l'acquolina in bocca, non pensa alla povera spigolina che potrebbe nuotare felice in acque tranquille. Esattamente, quello che noi dobbiamo ricordare comunque è che siamo anche noi animali e abbiamo comunque una storia di animali onnivori, quindi il fatto di aver consumato carne nel corso di tutta la nostra storia, bilanciata ovviamente anche con cibi di origine vegetale, fa parte del nostro essere Homo sapiens, e questa è una cosa che non va cancellata. Poi è ovvio, proprio la nostra etica, la nostra moralità che ci porta a riconoscere certi atteggiamenti negli animali a noi più vicini, ci rende più difficile ovviamente. Poi non mi sembra che nei nostri processi evolutivi, ammesso che possiamo percepirli nella loro infinita lentezza, ci avviamo verso essere animali non onnivori e non carnivori. Ma sinceramente dai dati che leggiamo sui giornali è difficile dirlo, visto che le malattie più diffuse oggi sono malattie legate all'obesità e a un eccesso di consumo di grassi, quindi non sembra proprio che ci stiamo orientando verso quello. Sicuramente l'equilibrio sarebbe migliore, ovvero sia un adeguato bilanciamento tra consumo di proteine animali e vegetali, e questo sarebbe il giusto equilibrio, anche perché ci riporterebbe a quelle che sono le nostre origini. Oggi non stiamo andando in quella direzione, proprio perché invece il consumo di grassi genere di origine animale è sicuramente superiore a quello che il nostro organismo può sopportare. Abbiamo evoluto la nostra cucina più velocemente di quanto si è evoluto il nostro organismo, e quindi non siamo in grado di digerire una cucina così particolarmente grassa e ricca di proteine, e le conseguenze sono diabete, obesità, ipertensione, eccetera. Si spappola tutto il fisico. Grazie professoressa Botese. Melog 2.0. Un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati. Un bastone marcio per lui è sufficiente. A un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido. Se gli dai il tuo cuore, lui ti darà il suo. Di quante persone si può dire lo stesso? Quante persone ti fanno sentire unico, puro, speciale? Quante persone possono farti sentire straordinario? Tratto dal film Io e Marley, parla dell'amore per un cane. Mi sono interrotto con la professoressa Claudia Bordese, una biologa che ha scritto Vivere a spese degli altri, Elogio al parassitismo, Edizioni Blu, Esperte animali. Quali sono alcuni comportamenti tipicamente umani che noi vediamo in degli animali e quindi ci commuoviamo? Il cane può essere uno di questi: ci guarda con gli occhioni umidi, ci lecca la mano, guaisce quando ci vede, ci fa le feste. Esistono altri comportamenti umani, o perlomeno attribuibili anche all'uomo, che noi vediamo negli animali? Sì, certamente. Ci sono dei comportamenti che noi abbiamo un po' la pretesa di ritenere esclusivi della nostra specie, che in realtà si ritrovano in molti animali, soprattutto magari nei primati, insomma nelle scimmie, i nostri cugini più prossimi, ma anche in altri. Ad esempio è interessante notare come la risata, che noi riteniamo abbastanza una prerogativa della nostra specie, in realtà sia molto diffusa tra le scimmie, e si è diffusa anche per motivi in fondo analoghi ai nostri, perché ci sono scimmie che ridono tranquillamente per il capitombolo, per la caduta di un loro cospecifico, così come ridono nell'imbarazzo di una certa situazione o per drammatizzare una situazione in cui l'eccesso di aggressività di un compagno li porta a pensare che vabbè, facciamoci sopra una bella risata, scherziamo e non andiamo più avanti di qua. Ecco, ci sono anche dei topi, i cuccioli di topi, si è visto che ridono, non ridono sonoramente come noi, ridono emettendo degli ultrasuoni, però c'è proprio la risata che scatena il riso negli altri cuccioli, che attira altri cuccioli, quindi una risata che probabilmente ha un valore sociale, perché appunto si verifica in natura, oltre che nell'uomo, in animali che hanno comunque una forte vita sociale, che probabilmente ha proprio un valore di collante. Ecco, ma dov'è invece la forzatura? Entro in un negozio per animali, vedo accessori per animali, fa parte naturalmente di un business fiorentissimo, quindi non voglio solamente criticare chi produce fatturato, ma oggetti, cappottini, cappellini, cuccettine, giocattolini. Entrare nel giro dei possessori di cani, per i periodi che hanno avuto cani come cittadino, io ci si rende conto, si entra in un giro che poi visto da fuori a posteriori con delle vene di perversione piuttosto acute, fare incontrare cagnolini, parlare dei cagnolini, attribuire ai cagnolini aspetti, comportamenti, passioni tipicamente umane, non è un po' fare una forzatura e fare quasi una violenza all'animale? Sì, sicuramente lo è un eccesso, e forse è anche una povertà da parte del proprietario dell'animale in quel momento, che vorrebbe tanto avere, forse nel cane, nell'animale comunque di compagnia, un amico oltre quello che l'animale può offrirgli, che già gli offre tutto alla fine, ma queste forzature che cercano di umanizzare l'animale sono eccessive e portano a degli eccessi ancora peggiori. Però ci si cade tutti, guarda, io le dico, e qui faccio una confessione che non dovrei fare, io sono arrivato a fare le tortine di compleanno per il nostro cagnolino, in tempi passati, sono arrivato a costruirmi la barina quando morì il nostro cane, fu un dolore terribile, fu un vuoto in casa bestiale, passare la notte con Black Eder a costruire la barina, il giorno dopo lo andai a seppellire, quindi si viene coinvolti, poi feci figli, mi passò tutta questa passione, però ci si viene coinvolti comunque nel rapporto stretto con un animale da questa umanizzazione dell'animale. Ma sicuramente, ed è giusto anche che sia così, perché è un grande amico, è una grande compagnia ed è giusto, noi siamo comunque animali che esprimiamo moltissimo questi sentimenti di coinvolgimento ed è giusto averlo per chi ci sta accanto, non bisogna esagerare, io ho visto persone partire dall'Europa per andare ad aprire, a dare dei soldi in India per aprire rifugi per i cani randagi, allora questo è una mia personale opinione, è un'esagerazione, mi sembra che i soldi in India si possano portare magari per aiutare i bambini di strada prima ancora che per recuperare i cani randagi, cioè, che potrebbero anche mangiarseli onestamente. E, ritornando a quello che si diceva prima, altri comportamenti che a noi, ad esempio il senso di ingiustizia, o meglio ancora di giustizia, che ci sembra abbastanza tipico della nostra specie, lo si trova in molte scimmie, anche qui nuovamente, cioè provate a chiedere a due scimmie di, diciamo, pari grado sociale, di riportarvi un dato oggetto, ripagatene una con una fettina di cetriolo e l'altra con un grappolo d'uva, vi garantisco che questa seconda manifesterà delle espressioni e anche dei vocalizzi di chiara ingiustizia, perché certo, si sentirà assolutamente privata di un qualcosa. L'altro che dice, ma sempre a me mi tocca il cetriolo, è chiaro, lo dicono anche gli esseri umani. Cristiano, buongiorno. Cristiano. Buongiorno Gianluca. La sto ascoltando. Sì, è una notizia che era venuta qualche tempo fa. Io premetto, sono un mangiatore normale di carne, di verdure, di qualsiasi cosa, però effettivamente capisco che c'è una certa distanza dall'alimento carne, l'hamburger è una cosa che non ha senso. Allora pensavo con degli amici che potesse essere interessante nei supermercati e doversi uccidere da solo il proprio animale, cioè la gallina viva, uno va lì, si prende un coltellaccio, gli taglia la testa e se lo porta a casa. Per gli animali più grandi ci si mette d'accordo con più amici, si va a prendere la vacca, più persone la si ammazza, la si spartisce. Lei dice uno dovrebbe seguire tutta la catena della soppressione dell'animale, della lavorazione dell'animale, per poi capire da dove viene la carne. Noi abbiamo una visione asettica della la polpetta, non viene da nessuna parte, sembra quasi una sorta di essere extraterrestre che ci manda questa manna dal cielo. Così automaticamente, magari uno ne mangia pure meno, perché cioè, ammazzarsi una gallina non è... Guarda, io ho visto invece su YouTube proprio ieri un Memento Mori che sta girando tantissimo su Facebook, di un ragazzo americano che ha preso alcune polpette, alcuni hamburger per dimostrarne le qualità, le non qualità, l'ha messa sotto delle cappe di vetro e per due mesi ha filmato la putrefazione dell'hamburger. Cosa diventa un hamburger dopo due mesi? Lei se lo può immaginare, la descrizione delle muffette, dei liquami, via dicendo. È una operazione simile a quella che facevano alcuni anacoreti, alcuni monaci, in alcuni ordini monastici. La contemplazione, la putrefazione di un proprio confratello significava capire quanto si caduca la carne. Pari all'esercizio che propone lei, proporrei un altro, vedere poi come va a finire la carne. Se vogliamo dare comunque dei sensi di colpa a chi mangia carne, se vogliamo non dar sensi di colpa, ognuno si compri il polletto già disossato, la polpetta già macinata, il piccioncino che già sembra qualcos'altro e non si faccia poi tanti problemi. Fiorella. Sì, buongiorno. Stavo ascoltando, questo è molto interessante, quello di uccidere il proprio animale, perché è una cosa che il nostro stomaco non vuole vedere, non siamo più abituati. Sì, magari che è nato in campagna non ha nessuna difficoltà. Sì, infatti, non siamo più abituati. A me non fa assolutamente senso, ma cosa normale, non vedere ammazzare una gallina. Una cosa talmente io comune. Ho ascoltato da un macellaio che andava anche nel mattatoio a ammazzare gli animali e ha detto quando vedeva i vitelli piangevano prima di ucciderli, prima di sparargli. Poi usano anche certi metodi. Sì, oggi, che sono quello che oggi è terrificante è la catena di sterminio. Nelle campagne c'era una sorta di quasi ritualità, era una festa. L'animale a un certo punto sapeva come tirava il collo al gallo, alla gallina. Sì. Era normale, non mi dava più un trauma fortissimo, assolutamente no. Adesso non so cosa mi procurerebbe o ai bambini di oggi cosa procurerebbe. Comunque il mio intervento era su questo. Io proprio ieri sera stavo riflettendo tra me e me sugli elementi della natura e mi dicevo, mentre chiudevo le finestre, mamma mia che freddo che fa fuori, no? Mm-hmm. Chiudiamole queste finestre, come sto bene al mio calduccio in casa. E tra le altre cose ho detto, certo, questo deve essere stato un grande problema alle origini di queste società dell'uomo che ha dovuto combattere, crearsi fuoco, riscaldarsi e poi andare a cacciare gli animali e ma ad essere anche mangiato dagli animali, perché di sicuro chissà quanti sì, però ragni, adesso non accade più questo. Se questo non accade più, però ha inculcato in noi la paura, perché questo è, gli elementi della natura ci hanno trasmesso le paure. Lei teme un cacciatore che possa ghermirla un giorno? Lei teme un cacciatore che possa cacciare lei come preda? Come me come preda? Ah. No, non e vedo di cosa più un paura? Cacciatore oggi. Non esistono se animali feroci in giro. Mangiare la carne. Ancora in Canada vanno a caccia degli animali. Ma anche in Toscana vanno a sparare al cinghiale. Esatto, ai cinghiali. E io quando camminavo ma se non Toscana, ci andassero i cinghiali stanno riempendo le nostre campagne. Esatto, io ho paura dei cinghiali. Ma io lo so, un cinghiale è brutto, io me lo sono visto una sera accanto alla macchina, vedo queste due zanne all'altezza dello specchietto retrovisore, mi guardavano, era grande quanto mezza automobile, certo se avessi avuto un fucile gli avrei sparato, però non avrei avuto problemi. Non so, anche un leone in mezzo alla strada a me fa paura. Ma il leone è più difficile, il cinghiale è più normale. Non ho nessun mezzo per difendermi dal leone, se non ritirarmi in qualche posto. Vabbè, sicuro. Diciamo che esiste ancora in noi l'ancestro profondo della foresta piena di belve e questo fa riflettere la nostra ascoltatrice. Claudia Bordese, proprio per concludere, questa idea della foresta piena di insidie e piena di pericoli che ancora incombe in noi ha poco a che fare, secondo me, con l'argomento di oggi. No, non credo, perché tutte le volte che noi andiamo a cercare alla fine degli aspetti umani negli animali, in realtà facciamo, secondo me, il processo inverso, ovvero sia cerchiamo quel filo che ci lega alla natura, cioè il lato animale che è in noi. E in fondo quello che servirebbe molto a risolvere molti di tutti degli argomenti trattati oggi sarebbe proprio un riavvicinarsi al nostro lato naturale, riavvicinarsi alla natura. Probabilmente vivere un po' di più in mezzo alla natura ci renderebbe tutto un pochino più facile, ci renderebbe più partecipi di quelli che sono anche gli stessi sentimenti e i comportamenti degli altri animali e un pochino più pronti a recepire quello che è il nostro lato animale e quindi la natura che è in noi. Grazie dottoressa, ringrazio anche Fabrizio Intondi e Alessandro Chiappini che sta già tirando fuori il suo panino con dentro una serie di alimenti animali che vedo ancora starnazzare, quindi mi fa piacere che abbia colto in pieno il senso di questa trasmissione. Domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22.